aggetto trovar chi mi ristori. I lieti abitatori, questi alberghi già pieni, volan per tutto solitudine e lutto. Grande peso, ogni momento, io ti vedo. apparir di non confonderti offino. In ogni grande improvviso piacere questo che vedi in un insolito effetto. In pochi istanti perché torni in se stessa basta un breve riposo. All'alma oppressa. Consueto affetto, ospite passeggero sempre il diletto. Thank you. piacque al Signor del sacrificio e loto, che pronto io sorgo, al destinato col me, col figlio sol che mi seguia vicino, con qual cor tu lo pensa, io mi incammino. Per via mi chiedi, Sacco, l'ostia, provvederà l'Iddio senza mirarlo in fronte messo io rispondo e vo salendo il monte giunto là la compogno mi secchirà mi sopra vada a te. nel figlio. Ma tutto allor comprese, e come offriva Dio la sua vita in tributo. Come agnelli innocente, umile, un'incognita forza d'onda cercia mi reggea, nel padre e nell'uomo era più in me. La grazia aveva vinto già la natura, un lume ignoto all'umana ragione e miei pensieri con la morte del figlio le divine promesse univa insieme. D'amor, di fe, di speme, tutto ardeva il cor mio, e mi parea di ragionare con Dio. E già sul capo imposta del genuflesso isacco la sinistra io tenea, già fise in le mie pupille. Alzate in atto stava già di ferita desarmata, il colpo già cadeva. Ruggimi il cuore quando un vivo splendore l'aria accende improvviso, e voce udiamo che mi sgrida dal cielo. Fermati, Abramo, il figlio non ferì, quanto lo temi, già Dio conosce, ad immolare per lui l'unigenita prole, tu sei pronto, e lo vede, altro non vuole. Respiro il suon di queste, consorte i teneri momenti, e l'uomo e padre ecco in Abram. Di queste voci il suono l'alma mia disarmò, d'argini franze cadde all'intorno, e il violento fiume degli affetti tutto a volo mi inondò. Stupor, contento, gratitudine, amore tempo, tenerezza, pietà. Quasi in quel punto, quasi oppressero il cuore. Dar grazia a Dio volea del don, ma non poteva il labbro parole articolar. Disciore il figlio affettoso volea, ma i nodi stessi che intrepida formò, la man tremante rallentar non sapea. Voci interrotte dal soverchio piacere, e nei riamplessi baci misti di pianto, che narrando si confondo di nuovo i sensi miei. Figlio, si è che mia vece, io non potrei. La vittima mancò al sacrificio ancor, Dio lo provvir come a prompresagì. Rivolgi al suono d'uno scosso cespuglio, vece a bianco monto che fra gli impacci le flussuosi dumi, rimasto prigionier, l'arma d'affronte liberar non potio. Questo, felice, questo tenne i lacci miei, questo Thank you. tacete, tacete, apprese il cielo. Thank you. Sacrificio questo sarà, e soddisfaccio insieme dell'eterna giustizia e l'eterna pietà. La morte questa capirà nella vita.